Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Gli esperti la chiamano la valle della morte, quella fase nello sviluppo di una tecnologia nella quale tipicamente chi si occupa di ricerca considera finito il proprio lavoro e vorrebbe uscirne, mentre l'industria invece ritiene che sia ancora troppo presto per entrare. L'eolico troposferico di cui abbiamo parlato ieri sera si trova o rischia di trovarsi, di cadere esattamente in questo limbo. Ieri abbiamo visto che una ventina di startup nel mondo stanno cercando di capire come sfruttare i venti troposferici che promettono all'eolico di quadruplicare la propria capacità di offrirci energia. Ma bisogna salire a un chilometro o due di quota, staccarsi da terra con degli apparati che sono una via di mezzo tra degli aquiloni, degli alianti, diciamo, attaccati a terra con un cavo. Insomma, ci sono varie tecnologie, ma potrebbe non essere tecnologico il motivo per cui questa visione rischia di fermarsi. Ne parliamo con Giacomo Arsuffi dell'unità tecnica fonti rinnovabili dell'Enea, che recentemente ha presentato un rapporto sull'eolico troposferico al Parlamento italiano. Buonasera Arsuffi, bentornato. Buonasera. Dunque Arsuffi, ieri abbiamo visto che le tecnologie in competizione sono diverse, vorrei capire quali sono i principali problemi, un po' comuni mi sembra di capire, a queste tecnologie per passare dalla fase prototipale a quella industriale. Diciamo che abbiamo due ordini di problemi: problemi di carattere strettamente tecnologico impiantistico e problemi, diciamo, di altra natura. Per quanto riguarda quelli di carattere tecnologico impiantistico, sostanzialmente queste tecnologie debbono dimostrare di poter avere strategie di sopravvivenza delle apparecchiature in presenza di fenomeni meteorologici estremi, devono dimostrare capacità di controllo dell'ala nell'intero spettro di modalità e condizioni operative. Tra cui sempre i fenomeni estremi, cioè insomma queste robe non devono rompersi e cascare, devono essere controllabili. Diciamo, deve essere compatibilità tra materiali impiegati, prestazioni richieste, e poi una cosa importante per arrivare sul mercato ovviamente è la definizione di standard progettuali e di procedure di certificazione per rendere la tecnologia appetibile agli investitori e alle compagnie di assicurazione. Questi gli aspetti tecnici, invece quali sono le barriere di altra natura, diciamo, non legate al tema della maturità industriale, allo sviluppo di questo tipo di eolico? Uno dei problemi fondamentali è quello legato alla necessità di interdizione dello spazio aereo nei siti dove vanno a essere installate queste tecnologie. C'è una lunga esperienza per l'eolico tradizionale della difficoltà di fare installazioni in determinate situazioni e ovviamente questo tipo di difficoltà è amplificato per le caratteristiche particolari di queste nuove tecnologie. Certo. Ovviamente altro aspetto è quello dell'accettazione di queste tecnologie. Comitati del no, insomma. Pubblica, sì. Sia per l'impatto visivo, sia per il rischio appunto di caduta di frammenti dei componenti in volo dell'apparecchiatura. E poi c'è un discorso di impatto ambientale, ormai nessuna tecnologia energetica può prescindere da queste valutazioni di questo, certo, tipo. Quindi dove potrebbe essere messa alla prova per cominciare questa tecnologia? Cercando di schivare un po' di comitati e problemi. Ma diciamo che questo tipo di tecnologia potrebbe essere adattissima per quanto riguarda le applicazioni cosiddette offshore, cioè in mare aperto, dove verrebbero notevolmente mitigati tutti, certo, gli aspetti e tutte le limitazioni che abbiamo considerato. Ecco, che valore economico anche può avere potenzialmente questo settore in Italia, secondo lei? Ma io penso che ci sia una notevole potenzialità da questo punto di vista, tenendo anche presente che una delle migliori start-up del settore è italiana, quindi sarebbe interessante e profittevole che si contribuisse anche a livello pubblico per cercare di stabilire se effettivamente le potenzialità di questa tecnologia possono arrivare o meno al mercato con successo. Insomma, intanto creando un ambiente favorevole, magari un insieme di leggi che consentano di fare questi benedetti esperimenti di cui abbiamo parlato. E magari queste sono le situazioni in cui magari anche metterci qualche soldino per cercare di avvicinare quei due mondi, ricerca e industria di cui si parlava all'inizio, forse non sarebbe sbagliato. Penso che è appunto necessario in ogni modo sostenere queste attività di tipo dimostrativo per cercare di portarle sul mercato. A quel punto si vede stesso rose fioriranno. Alla fine quanto giudica realistico che un giorno potremo alzare lo sguardo e vedere uno di questi sistemi lontano, lontano, poco visibile, ma nel cielo? Ma penso che ci siano delle buone possibilità, perché l'evoluzione naturale dello sfruttamento dell'energia eolica va verso le quote più elevate, e le tecnologie quelle sono. Grazie, grazie Arsuffi. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.